Lo Spinarello merita tutte le attenzioni ricevute. Gran protagonista in quella scienza tutta novecentesca che è l'etologia, già alla ribalta degli studi classici di Jacob von Weckschul e poi reso celebre da Nicolas Tinbergen, questo pesce sembra averci tuttavia un sacco di problemi sessuali. Per un insolito stratagemma della selezione naturale, le femmine dello Spinarello, mamme inaffidabili, si mangiano la prole o le uova o la prole, e al maschio tocca di inventarle tutte per garantire la perpetuazione della specie. Fa la guardia giorno e notte, finge perfino di aver trovato del cibo ghiottissimo per allontanare le femmine ingorde dalle uova e dagli avanotti. Il maschio dello Spinarello, insomma, a fecondazione avvenuta, fa una vita d'inferno. Il semplice avvistamento di una femmina costituisce per lui motivo di stress. Sono stati compiuti degli esperimenti da Gerard Fitzgerald, ponendo degli spinarelli maschi e femmine in un acquario con due divisori. Nessuno poteva avvicinare le femmine, ma mentre un gruppo di maschi poteva almeno vederle, all'altro gruppo questa botta di voyeurismo è stata negata. Bene, tanto era lo stress per il pericolo rappresentato dalle signore che i membri del gruppo vista sono morti molto prima di quei beati che dell'incombenza di femmine non avevano avuto percezione alcuna. Il caso dello Spinarello è il caso in cui si può parlare davvero di femme fatale. Stalin invece delle femmine sembra che non avesse paura. Quando ero bambino io, il massimo dell'osé e della propaganda per il regime sovietico era costituito da un libricino venduto in edizione piombata, dopo il tramonto e da edicolanti compiacenti. Stalin e le donne si intitolava, e in pratica anticipava l'apertura ancora lontana degli archivi del KGB. E anche Mao sembra che amasse riposarsi delle fatiche della lunga marcia con coorti di fanciulline giovani che rappresentassero forse molto concretamente quel seno del popolo in cui si avrebbe dovuto risolvere tutte le contraddizioni. Di Kennedy John Fitzgerald, per passare dall'altra parte, se ne sa ormai di cotte e di crude. Rapporti sessuali come aperitivo delle conferenze stampa, amanti segrete, la povera Marilyn Monroe. Clinton che gira con il materassino in macchina e che ci prova con qualche modesta molestia, al confronto almeno fino ad ora fa la figura del chierichetto astinente. Le cronache più fresche non hanno risparmiato né il duca di Edimburgo, che sembra che faccia le corna alla regina con assiduità, né il campione della socialdemocrazia tedesca Willy Brandt, che affamato perennemente di sesso, specie in treno, quanto sembra in cuccetta, a quanto pare si affidò addirittura per un florido reclutamento, niente meno, che ad un agente segreto della Repubblica Democratica. Lasciando da parte le orge dei dittatorelli di paesi dallo scarso peso politico, leggermente diverso è il caso di Gorbaciov, una persona così distinta, una persona così per bene. Sembra che, mentre il mondo tremava per lui nell'estate del 91 e lui era chiuso nella sua dacia e fuori infuriava al tentativo di colpo di Stato, lui avesse un curioso modo di far passare quel tragico tempo e di lenirne le angosciose implicazioni. Dimentico della propria sorte e di quella dei suoi cari, dimentico della sorte del suo popolo russo e forse dell'umanità intera, lui ha passato le giornate al videoregistratore ad analizzare scrupolosamente una collezione di film pornografici. Almeno lui, vabbè, a differenza degli altri, costava meno all'erario e dalla sopportazione altrui. Uno, questi potenti, questi signori del mondo dal cui dito indice dipende la vita di tutti noi, se li immagina intenti alla ponderata riflessione, in preda all'assillo morale quotidiano, circondati da dottissimi consiglieri, proni su calcoli e architettanti strategie di complessità geniali. E invece no. Sono lì che non vedono l'ora di sfilare le mutande a qualcuno in grazia di un programma politico articolato su lascivia e debosce. Fra lo spinarello e questi signori la differenza sta tutta in quel potere che i primi non hanno e che ai secondi consente il contatto con la femmina senza stressarsi affatto. Ciò che in natura si guarda bene dall'esserci, un potere esercitabile per il piacer proprio alla faccia della propria specie, un potere che implica la dissolutezza, c'è invece in cultura, E ciò costituisce la superiorità di tutti gli altri animali sull'uomo.